al 10, CQ Canile 10, Brecche Brecche, CQ Canale 10, Walter ci sei? Attento Walter, canale 10, attento Walter. Canile 10, canile 10, attention, canale 10, Walter, ci sei in atti, K, attento Walter, ci sei, dai, fate in fretta a sparire, porca miseria, CQ canale 10, Walter, mi senti? Ti sento, se basta le radio, però ci sono anche dei fischi. Ora? Sì, sì, avanti. Ti sono trovato su 10? Sì, su 10, sì, sì. Sono in assurdo? Discretamente. Sto usando il pool, il canale, quello da base, ce l'ho presente. Sì, che ce l'ho presente, ce l'ho avuto anch'io tanti anni fa. Quello che avevo voluto. Sì, sì, sì, ce l'ho avuto anch'io. Poi l'avevo dato a un amico e ce l'ha sempre lui, però non entra mai. Adesso ti faccio sentire, però non so se ti chiederò. Un messaggio italiano che fa. L'ho provato, ho fatto molto perché non sta il canale di sta più che il canale, sta duro, sta se non ti sento, sono una cosa. Va bene, d'accordo, se non ti sintonizzi tu su un canale e io parto dall'1 sino al 40 e poi ti chiamo io e vediamo dove mi trovi, dove ti senti. Ho già fatto questa cosa, mentre tu sta dall'1, sta spinto sul canale, però da ora, prova a parlare. 1, 2, 3, prova, attento Walter, mi senti bene? Sì, no, volevo essere più secco nell'altra radio, prova. Certo, 1, 2, 3, Walter, attento, Walter, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. Già ti sento, aspetta un po' il messaggio, già. Ok. Faccio un punto sul centro, sto usando questo apparato, lo mando a chiudere il video. All'interno è bellissimo, no? Perché ha fatto il fratello, ma trovare se no una cosa di una scatola, una scatola rettangolare, con quattro manopole e due lettere. Non so, mi sta ascoltando, sto usando un messaggio Johnson Messenger. Nel radio abbastanza bene, forse, il segnale non è molto alto, comunque già ti sento, dai. Mi sembra che era 9,5 una cosa del genere. Sì, perché come radio, vedo, Sì, è una scatola, non si sta facendo una notte, non lo fai di questa lanciare in legge. Sì, ma è bello, considera che è un vitale, c'è bello. Esce, quando parli, guarda, esce questo legge, ha una lavorazione strepitosa. Cacciarulli! È bello! A me piace, dunque. No, ma è una bella radio, bella colposa, E quella è data dalla cosa, dalla cosa, dal microfono, c'è un carro di due da tavolo, che da uno di due microfoni, è rimasto anche il numero di adesso, secondo me. È fantastico, è qualcosa. Adesso deve essere sulla mia, qualcuno che arrivava, che è possibile, guarda che mi già in doppio rischio. Lo so, ma Gianni, ma lo so, ma credo che Gianni non ce l'abbia dei danni più due o più tre. No, non credo che ce l'abbia. Lui muove direttamente dal baracchino che è il Vox, cioè il Vox, il letto qua con la radio lì, quello che ha lui. È molto bello, è una bellissima modulazione quella di Gianni. Sì, esce bene, esce benissimo. Non so questo, ma perché parlano nel PMR anche che passare le 27 a Bologna, non so, per le manie che hanno qui. In PMR sto sentendo, c'è la Giomaria, c'è, mi sembra Graziano, e poi c'è Luca, anche del Monte. Boh, Luca del Monte, no, non Luca l'altro, Luca del Monte. Sì, è vero, lo so, ma non so. 48 è un ottimo apparecchio, soprattutto quando è elaborato, però come platere è un cesso, guarda. Infatti il 95 qua, ma non fare affidamento al segnale che ti do, perché io ripeto, l'antenna bassa, antenna, se antenna la vogliamo chiamare, è con la canna stessa che avevo costruito e l'ho lasciata nel terrazzo, se la dovessi mettere dovessi la prima la mantova turbo, sicuramente è di gran lunga superiore il segnale, ma lì è in basso, la parte bassa della casa, la parte della facciata, mentre invece la parte dietro è almeno c'è tutta la piovenza del tetto, e poi c'era anche il tubo lungo, insomma c'è il metro più in alto, prima era, adesso è funziona a livello quasi, non dico di pavimento, ma appena un metro e venti più in alto del pavimento. Stanno applicando molto anche sull'accidenti Civitolk lì, sulla Midland, ma non ho senso. Sì, anch'io qualche volta ci vado, però nella versione canalizzata, perché nella versione gruppo non me ne frega niente, perché sono tutti quanti questi di fuori, sembrano i quadruni, sembra, e poi sinceramente parlando queste uno ce l'è. Sono la maggior parte sono camionisti che si raccontano la posizione dove stanno transitando, eccetera, eccetera. Poi c'è anche qualche lumina, io la chiamo puttanella, tra virgolette, ma non mi interessa, io adesso ho fatto solo un'esclamazione così avventata, però non è che ve lo vado a dire, chiaro? Quando sono venuto io lì qualche anno fa a vederla, altre, vabbè, ancora altre, tutte le pareti non erano completate, ma suppongo che adesso se le hai tutte sistemate. Non c'è mai sceso un vater, cioè, Gianni, a te, vater, non c'è mai sceso? Ok, vabbè, questo microfono no, sta uscendo un po' a tratti, comunque già capisco quello che stai dicendo. Ma deve essere roba di contatti che non sono per qui, è per quello magari come si muove, è per quello che esce così. E adesso sì, adesso è già quasi pulita, vorrei fare un altro passaggio a vedere, perché inizialmente vabbè, forse come muovi il cavo, però nel finale era abbastanza pulita. Non solo di divulgare, ma ce ne sentiamo di errori nel parlare. Non tutti siamo professori nell'università. va bene. Ma non è che per caso c'è il tasto che deve essere sollevato, no? Perché se c'è il rosmetro, magari c'è il tasto che lo mette in funzione anche lo smitter, come in certi baracchini. No, la lavorazione è bella, la lavorazione è ultima di Italia, va benissimo, caspita, altro che... No, in quanto a quello, va bene. Solo che magari adesso anche i microfoni, un po' di quel disossidante per i contatti elettrici, magari nel PCC ci vorrebbe, perché sai, lasciandoli tanto tempo fermi, così si possono oscillare, quando li schiacci così, almeno inizialmente potrebbero fare un contatto non molto bello, non molto buono, e per cui ecco perché magari può uscire così a tratti alle volte. Però questo sta uscendo bene, adesso sta uscendo benissimo. Ok, anche le bande laterali hanno solamente la M? Ok, sì, va benissimo, prendi la buccia. Anche io ne ho qualcuno, ma cosa ne ho? Mi serve di tutto, ne ho 12, mi sembra, di baracchini. Ho il 25, il Cortat 25B, che è quello da valvolare, ho l'HB23, ho il Garage 2, insomma ne ho diversi, là. Ho il 7000, Midland 780, mi sembra che si chiama, poi ho anche il Cobra 139, quello che ha la tastiera a tipo coso, come si chiama, tipo pianforte. Gli avevo fatto una piccola modifica, una quartiera, gli avevo, un giorno ho trovato una rivista, no? Tipo, mi ricordo che era, forse era il circuito elettronico, una cosa del genere, e c'era questa modifica da fare sui canali, e gli ho messo una quartiera interna, così, con qualche quarto, e da 23 canali sono riuscito a ottenerne 37, arrivo fino al canale 37, utilizzando, ad esempio, solo il canale 1, il canale rompe, a seconda del canale dove sono sintonizzato, tramite la vetta ottengo un certo numero di canali, in tutto 37, da 1 a 37.